2024 più 10. Interviste sul futuro di Enrico Pagliarini. Nel 1985, in Ritorno al futuro, il regista Robert Zemeckis immaginava di spedire Marty McFly nel passato con l'aiuto del mitico Doc. In molti di voi lo ricorderanno, con il rischio concreto di correggere il corso degli eventi, insomma di correggere la storia. Sappiamo che fortunatamente non corriamo questo rischio e non possiamo goderci lo spettacolo di poter andare avanti e indietro nel tempo. Possiamo però cambiare oggi il futuro, cercando di comprendere le conseguenze delle nostre scelte. Se infatti ci sono tecnologie destinate a migliorare le nostre vite, altre dobbiamo sperare che non diventino mai realtà. Anzi, dobbiamo fare di tutto perché rimangano solo un'idea. Ne parleremo in questa puntata. A 2024, il programma che da 20 anni Radio 24 vi propone ogni settimana, l'obiettivo è comprendere la tecnologia di oggi, come l'innovazione sta cambiando la nostra vita, il nostro lavoro, con ovviamente un orizzonte di sviluppo di qualche anno. In questa serie di podcast spostiamo avanti l'orizzonte e con l'aiuto dei nostri ospiti cerchiamo di immaginarci il mondo fra 14 anni, 2024 più 10. La voce che incontriamo oggi è quella di Stefano Quintarelli. È un informatico, è stato un imprenditore quando Internet arrivava in Italia, è stato deputato e fra le varie cariche che ricopre è presidente del comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Ma direi che indubbiamente una cosa che ci dobbiamo aspettare è un crollo dei costi dell'elettronica e conseguentemente un enorme aumento della sua diffusione. Io faccio sempre un parallelo, dico ai tempi dei romani non si sarebbero mai sognati di mettere quella cosa costosissima che era la carta fatta con i papiri o con le pelli di pecora sulle anfore o su pellettili. Oggi la carta per noi è una cosa che sta dovunque, l'elettronica sarà così, sarà dovunque. Parlavo con Alberto San Giovanni Vincentelli, che è un professore a Berkeley, mi raccontava che a Berkeley hanno un laboratorio sulle painted electronics, cioè l'elettronica dipinta, ovvero vernici che contengono all'interno dei pezzi di elettronica, sensori, processori, così, e così si costruiscono delle reti mesh, delle reti di sensori legati o di attuatori legati alla vernice. Sarà una cosa estremamente diffusa l'elettronica, questo perché, contrariamente a quanto ci si può aspettare a quello che è la narrazione fatta da Hollywood, non avremo un aumento spaventoso delle capacità, della potenza di calcolo ancora per tempo indefinito. Noi sappiamo già che siamo arrivati al limite della tecnologia. Questo non vuol dire che non ci saranno dei supercomputer più potenti o che usando delle tecnologie di nicchia, vuol dire che nell'elettronica di massa, nell'elettronica di consumo, siamo quasi arrivati al limite, nel giro di qualche anno arriveremo al limite del rapporto prezzi-prestazioni. Allora la competizione da parte dei produttori non potrà più essere sulle performance, mantenendo il prezzo, ma sarà necessariamente sul prezzo. Questo implica che il prezzo dell'elettronica crollerà. E implica anche che ci saranno delle fusioni tra i grandi produttori di elettronica e che questa cosa diventerà geostrategica, no? Lo è già, però lo diventerà sempre di più. E quindi con questo crollo dell'elettronica, dei prezzi dell'elettronica, avremo l'elettronica distribuita ovunque. In qualunque oggetto voi abbiate oggi davanti agli occhi, avremo dentro delle cose dell'elettronica entro questi 15 anni. Delle parti elettroniche e saranno collegati in rete, rileveranno dati e comunicheranno dati, e questo determinerà, quindi da una parte questa esplosione della quantità di elettronica distribuita genererà un'esplosione dei dati raccolti. I dati devono essere archiviati, no? Quindi se vogliamo, quindi l'Internet of Things è il paradigma dell'elettronica dovunque, genererà così tanti dati che finiranno all'interno di grandi archivi, e qui abbiamo il paradigma dei big data. E questi verranno analizzati con strumenti sempre più sofisticati di analisi statistica, correlazione, predizione, cioè quello che noi chiamiamo intelligenza artificiale. Quindi noi vedremo un grande sviluppo in tutte queste tre aree, IoT, Internet of Things, Big Data e Artificial Intelligence, proprio dovuti al fatto del crollo del costo dell'elettronica e della sua pervasività. Naturalmente questo genererà ulteriori tensioni su questioni di controllo sociale, di controllo del lavoro, e dovremo abituarci all'idea che noi viviamo all'interno di un computer. Cioè oggi quando pensiamo a un computer, è curioso, no? Un tempo quando pensavamo al computer pensavamo a quell'oggetto con la CPU, l'unità di processing sul tavolo, sopra c'era il monitor, davanti la tastiera e poi il mouse. Poi quando pensiamo al computer pensiamo al laptop, adesso pensiamo tranquillamente al telefono cellulare, magari non lo vediamo come un computer ma è un computer. Domani qualunque cosa intorno a noi fa parte di questo grande computer. Se ci pensiamo sta già accadendo, perché dove avviene la computazione quando noi lavoriamo? I calcoli dove avvengono? Il computer è sempre di più l'oggetto che presenta le cose e i calcoli avvengono altrove, no? Nel cloud. Cloud che è dovunque, perché noi non sappiamo, cloud che vuol dire il computer di qualcun altro, che può essere, sono tanti computer sparsi in giro, quindi la computazione avviene ovunque, i dati vengono archiviati ovunque, e quello che in ultima analisi determina il fatto che noi abbiamo accesso ai nostri dati, ai nostri servizi, eccetera, è il riconoscimento della nostra identità. E quindi l'identità nei prossimi anni diventerà, lo è già, ma diventerà evidente che lo è sempre di più, l'asset competitivo più estremo, cioè la cosa sulla quale si basa buona parte della competizione, perché poter gestire e poter avere il controllo dell'identità delle persone consente di garantirsi una loro fedeltà nel tempo e quindi ricavi sostenuti nel tempo. Quindi, riassumendo, elettronica che crolla di prezzo, pervasività dell'elettronica, aumento Internet of Things, Big Data e Artificial Intelligence, l'identità, il controllo dell'identità, problemi di controllo sociale, controllo del lavoro, eccetera, controllo dell'identità come asset competitivo, e questo direi che secondo me è lo scenario che vediamo nei prossimi 10-15 anni. Beh, senti, se pensiamo alla vita di tutti i giorni e guardiamo ai servizi o ai prodotti che acquistiamo e utilizziamo, secondo te tra queste cose che cosa cambierà di più nei prossimi 10-15 anni? In realtà cambia un po' tutto, non è che si stravolge, però si evolve un po' tutto, perché generando dati noi abbiamo la capacità di fare delle analisi statistiche sui comportamenti e quindi fare delle predizioni migliori, no? Quindi tu dicevi poco fa il trasporto, il trasporto è assolutamente ovvio, riceveremo consigli, a parte che poi bisognerà vedere quanto effettivamente ci sposteremo, però riceveremo consigli su come spostarci o non spostarci, e l'esperienza di viaggio sarà un tutt'uno integrato per garantire la massima capacità del sistema. Il fatto di mettere elettronica dovunque consente di ottimizzare i sistemi, cioè quando io ho un sistema disordinato e ci metto dentro dell'informatica, a quel punto comincio a generare dell'ordine, riduco l'entropia, no? Comincio a generare dell'ordine. Nel momento in cui genero dell'ordine, posso ottimizzare il sistema e lo ottimizzo. Ma ottimizzare il sistema vuol dire anche avere un sistema più fragile, perché chiaramente un sistema non ottimizzato è quello che mi lascia i cuscinetti per recuperare in caso di problemi. Quindi le nostre esperienze saranno tutte altamente ottimizzate, ma sarà quindi complessivamente il sistema sarà più fragile. Quindi un altro degli effetti che dobbiamo aspettarci è un aumento enorme dei problemi di cyber security. In questi mesi ti stai concentrando sul tuo ultimo libro, Capitalismo immateriale. C'è però un tuo libro del 2016, Costruire il domani, in cui fai alcune ipotesi sul futuro. Due mi avevano colpito e me le sono segnate. La prima è l'intrattenimento e l'avvento di film dove non solo la scenografia è creata da un computer. Questa è una cosa che accade già oggi, la computer graphic ha cambiato il cinema da tanti anni. Ma in questa ipotesi sul futuro anche gli attori sono e saranno sintetici, virtuali. L'altra prospettiva, l'altra ipotesi che mi ha colpito è il futuro delle indagini di polizia, che saranno sempre più sofisticate proprio grazie alla grande quantità di dati che ci saranno. Ma iniziamo dall'intrattenimento. In realtà quello che noi stiamo vedendo, no? Oggi ci viene raccontato dei deepfakes, no? I deepfakes sono queste cose per cui facciamo parlare Obama con la con la faccia di Obama, con la voce di Obama, che muove le labbra come Obama, ma non è Obama, sono io che parlo, no? Cioè sono io dietro che piloto questo avatar da digitale immateriale. E queste cose oggi le vediamo e sono delle cose così un po' macchiettistiche. Domani queste cose diventeranno mainstream, questo sì, ma questo è legato proprio all'aumento della quantità di capacità di calcolo disponibile che aumenta e al miglioramento degli algoritmi. I deepfakes sono realizzati con delle tecniche di intelligenza artificiale. E qui ritorno al punto della centralità dei meccanismi di controllo dell'identità, perché quando io guardo una persona davanti in un video, in un monitor, non potrà mai essere certo che è veramente la persona che sta dall'altra parte. Insomma, ci possono essere dei problemi anche lì. E chiaramente fare questo costerà meno che non fare dei set reali, ma lo stiamo già vedendo, spizzichi e bocconi, diventerà mainstream il fatto di prodursi il proprio prodotto video digitale, eccetera, con strumenti totalmente digitali, dove magari il regista interpreta tutti i ruoli. Io di questa cosa ne avevo parlato con diverse persone del mondo del cinema e tutti mi dicevano no, impossibile, poi ne ho parlato con Tornatore e dicevano no, assolutamente, stiamo andando lì, è molto evidente che sta andando lì. Quindi io credo questo secondo me lo stiamo già vedendo accadere, accadrà sempre di più. Cioè, l'altro giorno c'era Fratelli di Crozza e che c'era Crozza che ballava in mezzo a delle ballerine e mi aveva toccato un pochino, mi c'era qualcosa che non mi tornava e però non era così evidente, anzi non lo era per niente, solo che le ballerine non c'erano. Allora, queste cose qui sono ovvie, fammi dire, ma la qualità con cui questa cosa, la qualità migliora tantissimo e diventerà impercettibile. Quando diventa impercettibile, lo è già, però lo sarà proprio ovunque, quando diventa impercettibile ovunque avremo cambiato radicalmente il modo di fare cinema. Per quanto riguarda le indagini di polizia, le indagini di polizia anche qui, qui torniamo al tema che dicevo prima dell'identità delle persone, del controllo sociale, grazie a questa miriade di sensori. Oggi quando io ero in Parlamento ho fatto una proposta di legge per regolamentare le intercettazioni, chiamiamole così, fatte col Trojan, cioè con i cavalli di Troia informatici che vengono innestati nei nostri telefoni. E parlando con gli addetti ai lavori, più o meno tutti pensano all'intercettazione telefonica tradizionale e il problema è che finiscano sul giornale. In realtà stiamo guardando un film in bianco e nero quando parliamo di queste cose, nel senso che il mondo è già completamente diverso. Cioè oggi inoculare un Trojan su un dispositivo di una persona è una cosa veramente poco costosa. Cioè si possono comprare degli exploit, cioè si possono acquistare delle tecniche, si possono acquistare le informazioni per fare delle infiltrazioni a prezzi veramente ridotti su una grandissima quantità di dispositivi e a quel punto, una volta che io sono infiltrato su un dispositivo e gli piazzo dentro del codice che registra tutto, all'interno di un nostro telefono c'è il GPS, la posizione, il microfono, l'accelerometro, e il sensore di luminosità, il sensore di pressione, cioè sa veramente tutto, se stiamo camminando, con che passo camminiamo, con chi siamo, la prossimità degli altri dispositivi. Pensiamo adesso a tutte le discussioni che ci sono state in merito al contact tracing. Cioè stiamo entrando in una dimensione della sorveglianza che è radicalmente, cioè molti ordini di grandezza maggiore rispetto a quello che fosse in precedenza, e quindi il problema non è che le intercettazioni finiscono sul giornale, ma rispetto alla nostra Costituzione qual è la garanzia tra i diritti dell'imputato e i diritti della società che va a indagare e come vengono bilanciati, no? Perché il domicilio della persona è inviolabile salvo nei casi definiti dalla legge, e questo salvo nei casi definiti dalla legge va specificato bene, perché oggi ormai non è quasi più giustificato. All'interno dei nostri dispositivi c'è tutta la nostra vita, ci sono tutti i nostri dati, tutte cose ben più di quanto noi possiamo ricordare e sapere. E lì dentro c'è un'invasività pazzesca e possibile, e occorre una catena di controllo molto rigida. E questo questo diventerà molto chiaro e il controllo non sarà limitato appunto al telefono, il monitor, la tastiera o quel che l'è, ma sarà il termostato, l'altoparlante, la maniglia, la lampadina, la scrivania, cioè tutte quelle cose che c'hanno dentro quei il muro con la patent electronics, tutte quelle cose che dicevo prima, dove entra l'elettronica. E quindi bisogna veramente pensare a una riforma molto radicale di quello che è la disciplina delle intercettazioni, perché se vogliamo mantenere la nostra libertà. Veniamo ad una preoccupazione alla quale facevo riferimento all'inizio. Ci sono dei futuri che dovremmo evitare, dovremmo cercare di evitare. In particolare penso alle tecniche di ingegneria e manipolazione genetica, che se in alcuni casi potrebbero portare a benefici alla nostra salute, è evidente che potrebbero portare anche a degenerazioni che preferiamo nemmeno immaginare. Penso anche alle armi governate da sistemi di intelligenza artificiale che potrebbero in autonomia decidere chi e come uccidere. Ci sono in generale dei futuri, quindi, che sarebbe meglio non vedere? Beh, direi che tu hai centrato i due più delicati, no? Cioè, in generale, ogni cambiamento, ogni evoluzione verso il futuro può essere usata a fin di bene e usata anche a fin di male, no? Perché ci sono delle persone che si fanno la punta al cervello su come sfruttare in modo fraudolento le tecnologie e i sistemi. Pensiamo al ransomware, no? La cifratura. Ti si introduce sul computer un qualcosa che ti cifra il disco e poi ti dice se vuoi avere le chiavi di decifratura del disco per poter riottenere i tuoi dati, devi pagare. Stanno diventando delle cose sofisticatissime. Leggevo qualche giorno fa che addirittura per non farli beccare girano all'interno di macchine virtuali, quindi ti installano una macchina virtuale in modo tale che l'antivirus e il sistema di rilevamento non possa andare a ficcarci il naso. Quindi, cioè, il mondo non è come vorremmo che fosse, no? Se no non avremmo le leggi, l'enforcement, la polizia, eccetera. E quindi tutte le tecnologie vengono e verranno usate a fini di male, a vantaggio di qualcuno in modo non socialmente desiderabile, diciamo. Questo è inevitabile con qualunque sviluppo tecnologico. In particolare le due che tu citavi sono due cose sulle quali dobbiamo avere moltissima attenzione, e direi che mentre sulle tecniche di manipolazione genetica questa attenzione c'è, perché in generale tutto il sistema, tutta l'industria della salute è molto più controllata dell'industria dell'informatica, no? Pensiamo, ma giustamente pensiamo a tutti i criteri per poter immettere un prodotto in commercio, eccetera, cioè le autorizzazioni. Esistono molte forme per cui si possono sanzionare o adottare ritorsioni nei confronti di chi si comporta male. Invece nell'informatica è più difficile. E in particolare se lo pensiamo appunto legato ai sistemi d'arma, i sistemi d'arma sono una cosa preoccupante. Io sono uno dei firmatari di quella campagna Stop Killer Robots per fermare le armi, cosiddette LAWS, Lethal Autonomous Weapon System, i sistemi d'arma autonomi letali. Ho anche, quando ero in Parlamento, ho anche fatto una mozione che chiedeva al governo italiano di proporre ai partner una moratoria, quindi non di fare una moratoria, ma di proporre una moratoria. E l'altra cosa che chiedeva al governo italiano era di far partecipare degli esperti civili riconosciuti, non militari, alle discussioni internazionali dove si parla di queste cose. Ma la prima parte di proporre la moratoria è stata respinta, e la seconda parte invece è stata adottata un po' con delle riformulazioni, è già un piccolo passo avanti. Questo è sicuramente un ambito preoccupante e sul quale dovrebbe esserci una maggiore attenzione. Ricordo un collega che disse, cioè io a un certo punto disse, ma tu ti fidi del tuo computer? No, perché è evidente che tutti noi, cioè, sappiamo che il nostro computer ogni tanto si blocca, no? Non capiamo che cosa fa, eccetera, cioè ci fidiamo veramente. Per le cose che facciamo un po' ci fidiamo, ma non è che ci fidiamo ciecamente. Cioè, se quello è un affare che ha la potenzialità di ucciderti, ti fidi? Ovviamente no, no? E lui mi rispose, no, perché il mio computer sbaglia, ma quelli dei militari non sbagliano, no? E c'è questa idea taumaturgica che la tecnologia risolva qualunque problema, che sappia fare qualunque cosa perfettamente, che è sbagliata, è assolutamente falsa. Cioè, la tecnologia è una roba che ha un sacco di problemi, che ha tanti errori, fa tanti difetti, soprattutto con l'intelligenza artificiale sbaglia tantissimo. Questo anche per il riconoscimento dei criminali, dei terroristi, eccetera. La verità è che generalmente non funziona, cioè è l'opposto di quello che ci si può aspettare. Quindi bisogna essere molto critici rispetto... Io sono un tecnologo e sono un amante della tecnologia, e proprio per questo dico che bisogna essere molto critici e quindi mettere tutte le cautele del caso e avere grande competenza in quello che si fa. E anche qui diventa rilevante. La voce che avete ascoltato è quella di Stefano Quintarelli. Io sono Enrico Pagliarini, la parte tecnica è affidata ad Andrea Roccabella. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Ci risentiamo nella prossima puntata di 2024 più 10.